ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Terza puntata. Alle 4 Ferranini cambiò l'acqua da bere ai due cardellini che pisolavano nella gabbia sul davanzale, gonfi del sole di novembre, e le carte che aveva davanti sul tavolino. Niente riposa come alternare il lavoro. Si affacciò un momento. Dalla finestra dirimpetto alla sua, ma più alta d'un mezzo piano, le solite due ragazze cominciavano il bombardamento domenicale della gabbia dei cardellini coi pezzetti di mollica di pane. Lo salutarono. «Buonasera, professore!» Quando era sola, la più anziana delle due tentava anche con le gambe, con la gonna, qualche mossetta invitante. Giù nella strada passavano vociando un gruppo di giovanotti dietro a un gagliardetto, l'insegna di una squadra di calcio. Le molliche di pane cambiarono bersaglio, ma i tifosi non se ne accorgevano. «Oh, fanatici!» gridarono quelle. Adesso c'era da finire di esaminare una piccola montagna di opuscoli e documenti che aveva ottenuti dopo lunghe insistenze, deputato ma deputato dell'estrema, dall'Istituto di Statistica, dal Ministero del Lavoro e da quello degli Interni, o si era fatto venire con meno fatica dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio. Notizie, cifre, leggi sull'infortunistica, una materia che lo aveva sempre attratto e occupato nella sua esperienza pratica di lavoro, ma bisognava ora impadronirsene negli aspetti giuridici e legislativi per stabilire un programma d'azione. Era arrivato in Parlamento, aveva l'occasione di agire. Gli infortuni, già in questa parola ambigua, ingiusta, sono uno degli indici parlanti della condizione in cui seguita a essere tenuto il mondo del lavoro. Il modo come vengono trattati rivela con sinistra chiarezza i mali di cui soffre la comunità nazionale. Scarsità e arretratezza di mezzi, confusione e inconcludenza di direttive, incapacità a prevedere le necessità e a fronteggiarle, soggezione agli interessi del padronato, in sintesi, l'Italia. Senza un mutamento dello stato di cose, nel senso marxiano, cioè senza il rovesciamento del sistema, i lavoratori non si vedranno mai riconosciuto il diritto a contare, entrando in officina o in cantiere, sulla ragionevole certezza di tornarne fuori integri, almeno fisicamente, anatomicamente. A Ferranini questo era evidente. In attesa, però, qualche cosa si poteva fare, quindi si doveva. Ne aveva interessato i colleghi del gruppo con cui era in rapporti di amicizia, Reparatore e Amoruso. Amoruso lo incoraggiava, ma non era che un medico. Vedeva la questione dal ristretto angolo professionale. Reparatore, che era un sindacalista, consigliava di non farsi illusioni. Un progetto di legge di iniziativa comunista e di questa importanza non passa. Siamo all'opposizione, che scherziamo? Io non scherzo. I comunisti non devono partecipare alla vita parlamentare. Devono stare a vedere, restare estranei. Questo è un principio che tu ammetti, anzi lo sostieni. Beh, se c'è di mezzo un interesse immediato dei lavoratori. Il peggio fu accorgersi che scarso o nessun appoggio gli poteva venire dal partito. Aveva interpellato l'ufficio studi cavandone parole chiare abbastanza. Del problema ce ne occupiamo da un pezzo, è poco probabile che ci siano proposte veramente nuove da farci. A ogni modo siamo oberati di cose, se ne parlerà in seguito. Si era rivolto all'ufficio legislativo? La risposta era stata simile. Per Ferranini fu grandine secca. Per diversi giorni lo si vide tetro, ingrognato, o non lo si vide affatto. Fosse o no contraddizione con la sua tesi, quella ricordata da Reparatore, si sentì inutile. Sentì inutili e oziosi i 140 compagni del gruppo. «Dunque siamo qui a perdere il tempo!» Amos gli aveva scritto. Acli e Bonomiana, nel Reggiano, alzavano la testa. Capitava a un Bignami mica niente di trovarsi fra i piedi in campagna gli attivisti bianchi, altoparlanti sulle macchine e carta a quintali da dar via, emissari democristiani provenienti da Verona e da Brescia. Si attaccò al pretesto, andò in su e solo dopo 48 ore di assenza, a camera aperta, fece partire un telegramma di giustificazione. Tornato a Roma ci pensò meglio. Decise che niente gli impediva di affrontare il problema, l'infortunistica, di studiarselo per conto suo. Prima o dopo qualcuno lo avrebbe pure ascoltato. Ferranini, fece al suo fianco una vocetta velata di catarro. Giordano, che aveva la bottega d'ebanista nel cortile e si prestava come portinaio, per risparmiarsi i tanti rami di scale, mandava la sua bambina a portargli ambasciate o la posta. «C'è una signora giù, vuole salire?» «Nuccia. Ma se dovevano trovarsi in trattoria? Erano le 4:30, non si stava ai patti. Dille che venga». L'uscio si aperse qualche minuto dopo e venne dentro una figura viriloide, lunga, stretta in un impermeabile da cui sbucava un maglione scuro. Entrò e si sedette senz'altro, disinvolta e pareva giovane. «Vengo da Reggio, anche per incarico del dottor Viscardi. Sono Ilde...» La ragazza pronunciò un nome che Ferranini non raccolse. Poi seguitò, mentre si ravviava tranquilla i capelli, «Sono all'ufficio stampa della Federazione del PC. Il dottor Viscardi le vuol far sapere qualcosa di confidenziale. Manda me. Ma prima mi consenta, vorrei parlarle di una piccola faccenda che mi sta tanto a cuore. Una cosa mia, personale. Mi ascolta? Parlo?» Lui, che non l'aveva mai vista né conosciuta, riordinava le sue carte sul tavolino. «Parli», rispose senza alzare gli occhi. «Io scrivo», riprese quella con la voce stridula. «Ho un saggio critico su poesia e industria. Ne preparo uno sullo strutturalismo. Collaboro al Menabò. Le piace il Menabò? E che cos'è?» «Adesso», proseguì la ragazza imperturbata, «vorrei far esaminare qualche cosa di mio da Carlo Levi, già che sono a Roma. Ci andrei domattina. Vorrei pregarla, mi scusi, di farmi una presentazione a Carlo Levi». «Non so chi sia», rispose Ferranini. Aggiunse: «Sa, io sono un ex operaio, non sono mica un intellettuale». Intanto si diceva: «Andiamo bene. Da noi a Reggio prendono tipi come questa. La causa dei lavoratori è in buone mani, sono contento». Uno di quegli uomini, Ferranini, che restano negati all'umorismo anche nelle circostanze più idonee. Quelle riflessioni gli si tingevano di nero. L'introdursi della sconosciuta nel suo lavoro gli parve istantaneamente emblematico di una decadenza, di un tradimento in atto. La quinta colonna degli intellettuali balordi nelle sedi del Nord. Se n'era già accorto. «Oh, peccato, lei non conosce Carlo Levi!» esclamò la ragazza. «Ma mi pare quasi impossibile!» «Se mai vuole dirmi cosa c'entra la federazione con le sue chiacchiere!» «Subito, ci vengo subito. Viscardi è il dirigente interinale. Lei questo lo sa. Ma gli stanno rendendo la vita difficile. Vorrebbe che lei intervenisse per appoggiarlo. Mi ha incaricata di ricordarle l'appoggio che le diede il maggio scorso». «Nelle elezioni, lei intende?» «E allora», ribatté Ferranini con notevole calma, «lei ricordi a Viscardi che i miei elettori me li ero lavorati da me. Mandarmi deputato furono i lavoratori di Reggio. Le 7.000 preferenze che ottenni sono venute da altrettanti lavoratori che hanno avuto fiducia in me. Non mi sono spiegata, scusi. Viscardi fa appello alla loro amicizia. A Reggio ci sono elementi che gli fanno la guerra. E sa, con le calunnie. C'è Caprari, della sezione di Porta Castello, che sparge calunnie. Lo criticano, ad esempio, perché ha messo su la Giulietta, quando la Giulietta l'aveva vinta l'anno scorso con una di quelle cassette di liquori che regalano per Natale, capisce? E Caprari dovrebbe pensare a se stesso. A Reggio è di dominio pubblico che Caprari questa estate giocava a campione, al casinò. Qui Ferranini la calma la perse. La ragazza lo vide torvo, coi muscoli del viso che balzavano, capì di avere sbagliato accento e cercò di rimediare. Lei sa come vanno le cose. Caprari è pieno di ambizioni, aspira lui alla federazione. Viscardi è provvisorio per intanto. Ferranini esplose, parlando quasi afono, e si allentava il nodo della cravatta, strangolato dall'ira, si protendeva sul tavolino. «Le ambizioni», dice. Ma questi sono il gioco politico. Ne emergono dialetticamente i migliori. Viscardi è ambizioso, lo è il capo, Maccagni. Io sono ambizioso. Ma le Giuliette e le bische, le porcherie, lì non è ambizione, è miseria, viltà. Ma no, si calmi, scusi, lasci dire. Sono concessioni al costume borghese. È un voltare le spalle ai lavoratori che dovremmo difendere e che crepano, lo capisce il mio italiano? Muoiono, intanto che noi ci incarogniamo coi simboli di una classe corrotta e, come si vede, sempre corruttrice. E ora sgomberi, e presto, vada, vada, vada! Fece fatica a rimettersi, sconvolto più che altro fisicamente, come a lui succedeva. Uscì di casa che era ancora sossopra, indispettito di non trovare Nuccia che avrebbe dovuto aspettarlo in via dell'Orso. Nuccia arrivò in ritardo, andarono a mangiare. Vanità piccine lui perlomeno non ne aveva. Gli dava noia l'accoglienza del padrone della gargottina dove prendeva i suoi pasti, che lo squadernava agli avventori, onorevole, onorevole, sicché come ogni volta si diressero alla porticina del retro che si apriva sul cortile. Di rimpetto si affacciavano i finestroni della tipografia sociale San Salvatore e spesso, prima di mangiare, Ferranini si fermava coi tipografi, una ventina tutti con proprietari. Gli piaceva la carta stampata e vederla stampare. Sebbene fosse domenica, la tipografia era illuminata, ci lavoravano. Con la dispensa ecclesiastica, spiegò ridendo Gennaro, che faceva un po' da direttore. Del resto indistinguibile dagli altri nella tenuta e nelle mansioni. È venuto il parroco nostro qui a portarci le bozze dei bollettini parrocchiali della sua parrocchia e di 5 o 6 ancora. Lui è il direttore anche per i suoi colleghi e domattina dobbiamo essere pronti. Gennaro, un uomo di circa 30 anni, grasso, pallido, intelligente, era nato e cresciuto da genitori trasteverini a Brooklyn. Questo gli aumentava l'interesse di Ferranini. Ci tornerebbe Ferranini? Ci tornerebbe in America? No, è qui che c'è da fare. Vede, osservò Gennaro, qui forse qualche cosa cambia. Là non cambierà mai niente. Aveva ragione. Di su, Gennaro. Pella, gonnella, togni e ci. Vi danno sempre lavoro? La tipografia stampava qualcuno dei fogli di agenzia organi delle correnti democristiane. Un mestieraccio, Gennaro confidava. Certe sere si doveva rifare la composizione 3 volte. Pentimenti, rettifiche, controordini, telefonate nervose, rabbiose, messi che arrivavano da Piazza del Gesù, dal Viminale, da Montecitorio. «Stiamo comprando la terza linotype», rispose Gennaro allegro, issandosi sopra un magazzino per riposare un momento. «È lei, Ferranini, che non ci dà lavoro. Nel suo partito correnti non ce n'è?» «Noi siamo compatti», disse Ferranini amaro. Quando si furono seduti a tavola, Nuccia lo fissava. «Walter, tu in America ci torneresti? Sii sincero?» ma lui era sinceramente occupato in altri pensieri. «Vedi, sono deputato nel terzo partito comunista del mondo, ma se voglio avere un minimo contatto con la vita dei lavoratori, devo andare a disturbare quelli là della tipografia. I deputati del PC che frequento sono dei notabili, dei borghesi, non sono lavoratori. Amoruso è un medico, Boatta un insegnante, Reparatore un ex notaio. Per questo a Roma io mi sento rimorso a starci». «E che cosa hai fatto oggi?» disse Nuccia, che lo vedeva col viso grigio tirato. «Non ti senti bene?» «Ho studiato». «Che bisogno hai di sgobbare sui libri una mezza giornata? Per non perdere il contatto con i lavoratori non c'è bisogno di studiare tanto». Silenzio. Ferranini faceva la passeggiata sul piatto. Infilata una mollica nella forchetta, ripuliva torno torno il piatto. Finita la sua porzione, la prima, ne ordinava poi sempre un'altra uguale, del baccalà alla veneta che gli preparavano tutte le domeniche. «Ma sai», disse Nuccia dopo un poco, «non sei mica alla camera da stare zitto a questa maniera. Quando si mangia si combatte con la morte, senza contare che con la morte ci combattiamo dal momento che veniamo al mondo. Mi dispiace se non è allegro». Tentò di ridere e Nuccia si pentì della sua impazienza. Non si poteva dire che conoscesse bene il suo amico, erano stati insieme 30 volte o nemmeno, ma aveva avuto sin da principio una specie di intuizione di lui, quasi quella che si ha nei sogni delle persone, che riusciamo a identificare e sentire nei loro stati d'animo senza vederle mai chiaramente in viso. In quel momento le sembrò di dovergli attribuire un presentimento organico, la confessione di una debilità profonda, rassegnata. «Cos'hai, Walter?» «Niente. Non ti ho mai visto così giù. Non sei a posto? Perché fai venire ancora quell'altra roba? Lasciami mangiare. Oggi mi sono inquietato, ecco. È venuta una della Federazione di Reggio». Le raccontò della visita, lasciando perdere i pettegolezzi che aveva ascoltato. «Brutta sfacciata!» esclamò Nuccia. «Ed è capace di tornare!» «Ma no, è una semplicemente che si vuole mettere in vista. È una di noi. Tutti noi che stiamo nella politica o ai margini siamo sfegatati così. È già molto se siamo puliti. Ferranini è diverso? Tu credi, eh? Dico per modo di dire, perché mi giudico da me. Non ho bisogno del tuo parere». «E sbagli, il mio parere ti serve. Io so che diverso tu lo sei davvero. Mi giudico da me», ripeté lui convinto. E intanto cominciava il secondo piatto di polenta, annegata nella bagna grassa e fumante. «Sono compagno di quegli altri. A venire a Roma non mi c'è mica obbligato nessuno». «Se eri un ambizioso ci potevi venire 10 anni prima. Ma poi, Walter, ricordati quando sei andato a Marcinelle. Chi ti aveva chiamato o mandato? Eri un oscuro attivista in fondo a una provincia. Sei partito nella speranza, penso, di poter dare una mano a della gente povera che soffriva. Sei partito all'improvviso, non avevi con te nemmeno la valigia». Era esatto. Nemmeno il rasoio o un colletto da cambiarsi. Si fermò 3 giorni al Bois du Casier. Prima alla bocca del pozzo numero 6, il più disperato. Poi in casa di una calabrese, a tentare di consolare lei e la suocera, finché non seppero che il rispettivo marito e figlio si era salvato. «E tu ricordi come sono venuta a saperlo? Lo lessi nell'Unità». «L'Unità riportava il mio nome, non c'ero andato per nulla», osservò lui. «E cosa vuol dire, strambo che sei? Tu non lo sapevi andando che il giornale avrebbe parlato? È colpa tua se l'inviato dell'Unità era un modenese, delle tue parti?» «Beh», troncò lui, «passiamo ad altro». Erano rimasti soli nella saletta in disparte dove a Ferranini riservavano una tavola. Nuccia gli si sedette più vicino. «No, sta tranquillo, non sei furbo. Puoi dire di essere un puro, di una purezza demodè, teorica, da manuale per giovani proletari. Sin troppo puro per i miei usi». Lui fece una risatina. «Ridi pure. Me lo dirai mai, sono innamorato anch'io. Ti voglio bene anch'io. Se la Nuccia ti dicesse ti sto preparando un figlio, vorrei proprio sapere la tua purezza come reagirebbe. Mi risponderesti chiedo il nulla osta alla direzione del PC? Adesso Ferranini aveva alzato gli occhi a scrutarla. Walter, ora te lo posso raccontare. Il mese scorso ho temuto per diversi giorni. Ossia, non ho temuto affatto. Un figlio da te non mi farebbe paura. Siamo nel 1958, disse lui serio, e costruiamo il socialismo. La prossima generazione vedrà il comunismo. Mio padre diceva del socialismo di quei tempi là è tutto in 3B, bandiere, bande e banchetti. Nuccia, che gli si era attaccata davvero, lo accettava com'era. Pensò, pazienza, è importante che stia bene. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.